Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. E allora riprendiamo il nostro percorso da consumatori insieme all'Adico di Mestre. Auguri buon anno e ben ritrovato a Carlo Garofolini, presidente dell'Adico. Ciao Carlo. Ciao amico e un saluto a tutti gli ascoltatori. Primo tema, è sempre il primo tema dell'anno con voi, con te, quello dei saldi. Sono iniziati sabato in Veneto, erano iniziati già giovedì in due regioni del sud Italia. Un tema che ritorna sempre da parte vostra con alcune indicazioni da riproporre, giusto? Certo amico, sappiamo che i commercianti in questo periodo puntano molto sui saldi per cercare di raddrizzare una situazione molto difficile e certamente saldi appena avviati presto per fare i bilanci, ma c'è anche l'augurio che insomma le persone possano fare anche qualche acquisto e evitare le truffe che ogni anno poi capitano puntualmente. Voi già da alcuni anni proponete un controllo, un autocontrollo sui saldi. Sì, noi ogni anno proponiamo sempre la campagna Fotografa l'acquisto, perché abbiamo scoperto come la maggior parte dei nostri campioni intervistati, addirittura 7 su 10, dichiarano che in occasione dei saldi hanno sempre subito qualche fregatura. Per le principali fregature vengono sempre ricondotte a quello che è un falso sconto rispetto a un prezzo iniziale che poi era stato gonfiato, o perché magari la merce acquistata si è rivelata un avanzo di stagione rispetto a quella che invece doveva essere un articolo della stagione corrente. E quindi si cerca magari di svuotare gli scaffali, magari la gente ne approfitta lo stesso, anche se insomma il periodo è quello che è e i soldi, viste anche le tasse che si devono pagare solo in questo mese di gennaio, sono pochi. La tendenza e la media, secondo i vostri calcoli di spesa, quale potrebbe essere dalle nostre parti? Allora, è vero che le persone, anche con l'occasione che Natale è appena trascorso, hanno rinviato a molti anche la possibilità di acquistare, fare il regalo o di utilizzare un buono ricevuto in questi giorni qui. La cifra, certamente si parla di una cifra intorno ai 200-300 euro, e quindi una cifra che non è molto rilevante, ma che se utilizzata bene, certamente permette di fare qualche buon affare. Poi chiaramente ci deve essere molta attenzione in questo periodo, perché essendo un momento di grande attesa, di grande flusso, certamente, come detto, può capitare di tutto e noi come Adico siamo sempre aperti e disponibili a dare assistenza e ricevere e accogliere segnalazioni qualora si individuino degli atteggiamenti scorretti da parte dei commercianti. Bisogna anche diffidare dagli sconti, dai saldi troppo grandi, perché qualcosa dietro c'è evidentemente. Sì, noi come Adico ogni anno proponiamo sempre dei consigli e in particolar modo, iniziando proprio da quello che hai detto te, di diffidare da sconti di una certa rilevanza, come può essere un sconto superiore al 60%, certamente è da pensare, c'è il sospetto più che motivato che questo sia un prodotto non di stagione. Poi bisogna stare attenti di fare in modo che gli articoli comprati siano quelli realmente esposti nelle vetrine, perché molte volte i venditori mettono nelle vetrine certi prodotti, certi articoli, entri dentro e non li trovi. Conservare sempre lo scontrino, perché in caso di difetto è l'unica cosa che può permettere al consumatore la sostituzione del bene. Entro quanto tempo? Perché anche questo è importante. Normalmente sono 8 giorni. Bisogna sempre precisare che non è il diritto di ripensamento o di recesso, ma è il diritto di poter vedersi sostituire l'articolo qualora questo articolo presenti dei difetti. Poi è molto importante anche per chi decide in questi giorni di fare gli acquisti, come abbiamo detto, per fissarsi una cifra ben stabilita e quindi imporsi di non superarla e accertarsi anche che i negozi riconoscono la possibilità di poter pagare la merce con carta di credito banco, ma perché alcuni ancora oggi non sono convenzionati e potrebbero fare storie. quindi verificare se, se si può pagare appunto con il denaro elettronico. Questi consigli che ripetiamo ogni anno, ma ogni anno tornano sempre positivi e utili. Qualcos'altro da aggiungere? Le fotografie dell'anno scorso, ad esempio, come sono andate? Abbiamo avuto diverse segnalazioni di persone che hanno comprato degli articoli che invece di convinti di beneficiare di uno sconto e fare un buon affare, in realtà ci hanno dimostrato che qualche giorno prima era stato fotografato a un prezzo inferiore rispetto a quello che poi invece il commerciante ha dichiarato di scontare. Tutto sommato è andato abbastanza bene, perché comunque le persone sono molto accorte e molto informate rispetto agli anni precedenti. Certamente, Mirko, bisogna sempre indurre le persone ad essere molto accorte durante questo periodo, come abbiamo detto, perché poi le fotografie hanno fatto, vi hanno anche dimostrato un po' di confusione anche da parte di chi le ha fatti, che magari hanno letto una cosa rispetto ad un'altra. Per cui, ripeto, molta attenzione e soprattutto, se si decide di fare acquisti, approfittare di andarsi a vedere l'articolo qualche giorno prima, che non aspettare il giorno di grande flusso. Dunque, con questi consigli, buona spesa, buoni saldi per chi vorrà approfittarne nelle prossime settimane. Con l'Adico di Mestre ci ritroviamo tra un paio di giorni con un altro argomento. Grazie al presidente Carlo Garofolini, buon proseguimento. Grazie a te, Mirko, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.